11. In effetti è un segreto terribile e nel mio cuore non sento altro che gratitudine per l'uomo che non ha avuto paura di confidarmelo. Pensi bene di me, Lelia. E anche lui pensa bene di te, che questo segreto sia arrivato da lui a me in così poco tempo. Bene, allora. Tra noi tre si è instaurato un legame sacro, un legame di cui ho paura ma che non ho il diritto di sciogliere. Nonostante tutte le tue precauzioni oratorie, Lelia, non ho potuto fare a meno di sentirmi schiacciato quando mi sono ricordato che un'ora prima di leggere questa frase avevo visto quest'uomo stringere la tua mano che io non ho mai osato toccare e che non ti ho ancora visto offrire a nessuno, tranne che a lui. Ho sentito un brivido di ghiaccio scendere sul mio cuore. Tu che fai un'alleanza con quest'uomo avvizzito, tu, Angelica, tu, adorata in ginocchio, tu, sorella delle stelle bianche, ti ho creduto, sorella, per un attimo, di un... Non scriverò quella parola. E ora sei più di una sorella. Una sorella avrebbe fatto il suo dovere solo perdonandolo. Ti sei fatta volontariamente sua amica, sua consolazione, suo angelo, sei andata da lui, gli hai detto... Vieni da me, tu che sei maledetto, ti restituirò il cielo che hai perso. Vieni a me, che sono senza macchia e che nasconderò le tue macchie con la mia mano che è qua. Bene, sei grande, Lelia, anche più di quanto pensassi. Il tuo gesto mi fa male, non so perché, ma lo ammiro. Ti adoro. Non posso sopportare che quest'uomo che odio e compatisco abbia osato toccare la mano che gli hai offerto, che abbia avuto l'orgoglio di accettare la tua amicizia, la tua santa amicizia, che i più grandi uomini della terra implorerebbero umilmente se sapessero quanto vale. Trenmore l'ha ricevuta, Trenmore la possiede e Trenmore non ti parla con la fronte nella polvere. Trenmore è al tuo fianco e cammina con te tra la folla attonita, lui che per 5 anni ha trascinato la palla al piede, fianco a fianco con un ladro o un parricida, lui, il falsario. Ah, lo odio, ma non lo disprezzo più, non rimproverarmi. Quanto a te, Lelia, ti compatisco. E compatisco anche me stesso per essere il tuo discepolo e il tuo schiavo. Tu sai troppe cose della vita per essere felice. Spero ancora che la sfortuna non ti abbia amareggiata, che esageri il male. Respingo ancora la conclusione dannosa della tua lettera, che i migliori uomini sono i più vani e che l'eroismo è una chimera. Lo pensi anche tu, povera Lelia, povera donna, sei infelice. Ti amo. 12. Trenmore aveva un solo modo per meritarsi la mia amicizia, accettarla. E lo fece. Non aveva paura di fidarsi delle mie promesse, non credeva che questa generosità sarebbe stata superiore alle mie forze. Invece di essere umile e timoroso davanti a me, è stato calmo, confida nella mia delicatezza, non si mette sulla difensiva. E non suppone che io possa umiliarlo e fargli sentire il peso della mia protezione. In verità, quest'uomo ha un'anima nobile e grande, e nessuna amicizia mi ha lusingato più della sua. Non disprezzare più il suo carattere, ma disprezza la sua condizione. Non è vero, giovane orgoglioso, perché sei tu a esserlo. Hai il coraggio di elevarti al di sopra di quest'uomo che il fulmine ha abbattuto? Perché è stato imprudente, perché si è allontanato dagli scogli, lo rimproveri per la sua caduta? Ti allontani da lui mentre insanguinato e spezzato lo vedi risalire dall'abisso? Ah, tu sei del mondo, condividi i suoi inesorabili pregiudizi, la sua egoistica vendetta. Quando il peccatore è ancora in piedi lo tolleri ancora, ma appena è a terra lo calpesti. Raccogli le pietre e il fango del sentiero per fare come la folla, in modo che vedendo la tua crudeltà, gli altri carnefici credano nella tua giustizia. Avresti paura di mostrargli un po' di pietà, perché potrebbe essere frainteso come fosse un fratello o un amico della vittima. E se si supponesse che tu sia capace degli stessi crimini, se si dicesse di te... Vedete quest'uomo che tende la mano al fuorilegge, non è forse il suo compagno di miseria e di infamia? O piuttosto che dire questo, lapidiamo il fuorilegge, mettiamogli il tallone in faccia, finiamolo. Portiamo la nostra parte di insulti tra la folla che lo maledice. Quando l'orrendo carro porta il condannato al patibolo, la gente si accalca per insultare questo residuo di uomo che sta per morire. Fai come il popolo, Stenio. Cosa direbbero di te in questa città dove sei straniero come noi, se ti vedessero toccare la sua mano? Potrebbero pensare che siete stati in prigione, che sei stato in prigione con lui, piuttosto che esporti a questo giovane scappa da quella maledetta posizione. L'amicizia dei maledetti è pericolosa. L'ineffabile piacere di fare del bene a un uomo infelice si paga troppo caro con le maledizioni della folla. È questo il tuo calcolo? È questa la tua sensazione, Stenio? Non hai pianto ogni volta che hai letto nella storia dell'Inghilterra la storia di quella giovane fanciulla che, vedendo il re Carlo I incamminarsi verso la morte, si fece largo tra la folla di spettatori indifferenti e, non sapendo quale segno di interesse dargli, povera e semplice bambina qual era, gli offrì una rosa che aveva in mano. Una rosa pura e dolce come lei, una rosa che forse le aveva regalato il suo amante e che era l'unico, l'ultimo segno di affetto e di pietà che un re che camminava verso la morte riceveva. Non sei anche tu toccato nella sublime storia del lebbroso di Aosta dall'azione naturale e semplice del narratore che gli offre la mano? Povero lebbroso, che non aveva toccato la mano del suo simile per tanti anni e che trovava così difficile rifiutare questa mano amica e tuttavia la rifiutava per paura di infettarlo con la sua malattia. Perché Trenmore avrebbe dovuto rifiutare la mia amicizia? La sfortuna è contagiosa come la lebbra? Ebbene, così sia, che la riprovazione della gente comune ci avvolga entrambi e che Trenmore stesso sia ingrato. Avrò Dio e il mio cuore per me. Non è forse questo più della stima della gente comune e della gratitudine di un uomo? Oh, dare un bicchier d'acqua all'assetato, portare un po' della croce di Cristo, nascondere il rossore di una fronte coperta di vergogna, gettare un filo d'erba a una povera formica che il torrente non disdegna di inghiottire. Questi sono piccoli benefici. Eppure l'opinione pubblica ci vieta di farli o ci sfida. Vergogna. Non abbiamo un buon movimento che non dobbiamo comprimere o nascondere. Ai figli degli uomini viene insegnato ad essere vanitosi e spietati, e questo si chiama onore? Maledizione a tutti noi. Bene, se ti dicessi che lungi dal considerare il mio comportamento come un atto di misericordia, provo una sorta di entusiastico rispetto per quest'uomo che ha scontato 5 anni di carcere. Se ti dicessi che così com'è, spezzato, avvizzito, perduto, lo trovo più in alto nella vita morale di tutti noi. Sai come ha sopportato la sua sfortuna? Ti saresti ucciso certamente con il tuo orgoglio, non avresti accettato la punizione dell'infamia. Bene. Si sottomise, trovò che la punizione era giusta, che l'aveva meritata, non tanto per l'atto fraudolento a cui lo aveva spinto la disperazione, ma per il male che aveva fatto impunemente nel corso di diversi anni. E poiché si era meritato questa punizione, voleva subirla, l'ha subita. Ha vissuto 5 anni, forte e paziente, tra i suoi abbietti compagni, ha dormito sulla pietra, accanto al parricida, ha allungato la schiena in silenzio alla frusta del guardiano. Ha sopportato gli sguardi dei curiosi, ha vissuto 5 anni in questo pantano, tra queste bestie feroci e velenose. Ha subito il disprezzo degli ultimi furfanti e il dominio delle spie più vili. Era un detenuto. Quest'uomo era stato così ricco, così voluttuoso a volte, quest'uomo dai modi eleganti e dalle sensazioni poetiche, quest'uomo che era stato un artista e un dandy. Lui, che volava sulle onde della bella Venezia, circondato da donne, profumi e canzoni nella sua veloce gondola, lui che ha vinto premi a Newmarket e ha stancato i più bei cavalli d'Arabia con le sue corse folli e avventurose. Lui, che aveva dormito sotto i cieli della Grecia come Byron. Quest'uomo che aveva esaurito la vita del lusso e dell'eccitazione in tutte le sue sfaccettature andò a reimmergersi, ringiovanire e rigenerarsi in prigione. È questa ignobile fogna dove il padre che ha venduto le figlie e il figlio che ha violentato e avvelenato la madre trovano ancora il modo di pervertirsi, la prigione da cui si esce sfigurati e striscianti come le bestie. Trenmore ne è uscito in piedi, calmo, purificato, pallido, come vedi, ma ancora bello come la creatura di Dio, come il riflesso che la divinità proietta sulla fronte dell'uomo che pensa. 13. Il lago era tranquillo quella sera, tranquillo come gli ultimi giorni d'autunno, quando il vento invernale non osa ancora disturbare le onde silenziose e i gladioli rosa sulla riva dormono appena, cullati da morbide ondulazioni. I vapori pallidi mangiano gradualmente i contorni angolari della montagna e scendendo sulle acque sembrano allontanarsi dall'orizzonte che infine fanno scomparire del tutto. Poi la superficie del lago sembrò diventare vasta come quella del mare. Nessun oggetto ridente o bizzarro poteva essere visto nella valle. Non c'era più nessuna possibile distrazione, nessuna sensazione imposta da immagini esterne. La fantasticheria, divenuta solenne e profonda, vaga come il lago nebbioso, immensa come il cielo sconfinato. Non c'era più nulla in natura, se non il cielo e l'essere umano, l'anima e il dubbio. Trenmore in piedi al timone dell'imbarcazione trascinava nell'aria blu della notte la sua grande stazza avvolta in un mantello scuro, alzò la sua ampia fronte e il suo vasto pensiero verso il cielo che per tanto tempo era stato arrabbiato con lui. Stenio, disse al giovane poeta. Non puoi remare più lentamente e lasciarci ascoltare con calma il suono fresco e armonioso dell'acqua sollevata dai remi? A tempo, poeta, a tempo. Questo è bello, importante come la cadenza dei versi più belli. Bene, ora, riesci a sentire il suono lamentoso dell'acqua che si rompe e si separa? Senti quelle fragili gocce che cadono una ad una e si spengono dietro di noi come le piccole e monotone note di un coro in dissolvenza. Ho trascorso molte ore così, aggiunge Trenmore, seduto sulla riva di mari tranquilli sotto il bel cielo del Mediterraneo. Così ascoltavo con piacere il vorticare delle barche sotto i nostri bastioni. Di notte, in quel terribile silenzio dell'insonnia che segue il rumore del lavoro e le maledizioni infernali del dolore, il suono flebile e misterioso delle onde che battevano ai piedi della mia prigione riusciva sempre a calmarmi. E più tardi, quando mi sentivo forte come il mio destino, quando la mia anima rafforzata non era più costretta a cercare aiuto da influenze esterne, questo dolce suono dell'acqua cullava le mie fantasticherie e mi immergeva in una deliziosa estasi. In quel momento un gabbiano reale attraversò il lago e, perso nel vapore, sfiorò i capelli umidi di Trenmore. Un altro amico, disse il detenuto. Un altro dolce ricordo. Quando riposavo sulla riva, immobile come le lastre del porto, a volte questi uccelli viaggiatori, prendendomi per una fredda statua, mi si avvicinavano e mi contemplavano senza paura. Erano gli unici esseri che non avevano né avversione né disprezzo da mostrarmi. Non capivano la mia miseria, non mi hanno rimproverato per questo. E quando mi sono mosso, hanno preso il volo. Non si accorsero che avevo una catena al piede, che non potevo inseguirli, non sapevano che ero uno schiavo di una galea. Fuggirono come avrebbero fatto davanti a qualsiasi uomo. Poeta, disse il giovane al detenuto, dimmi dove la tua anima di ferro ha trovato la forza per sopportare i primi giorni di un'esistenza simile. Non te lo dico, Stenio, perché non lo so più. In quei giorni non sentivo, non vivevo, non capivo niente, ma quando ho capito quanto fosse orribile, mi sono sentito abbastanza forte da sopportarlo. Ciò che avevo confusamente temuto era una vita di riposo e monotonia. Quando ho visto che c'era il lavoro, la fatica amara, i giorni di fuoco, le notti di ghiaccio, i colpi, gli insulti, i ruggiti, il mare immenso davanti ai miei occhi, la pietra immobile della bara sotto i miei piedi, Storie terribili da ascoltare, sofferenze orribili da vedere, ho capito che potevo vivere, perché potevo combattere e soffrire. Perché la tua grande anima ha bisogno di sensazioni violente e di tonici brucianti? Disse Lelia. Ma raccontaci, Trenmore, come ti sei abituato alla calma, perché in fondo, come hai detto poc'anzi, la calma ti è venuta anche in questa tana, e poi tutte le sensazioni si affievoliscono con la ripetizione. La calma, disse Trenmore, alzando lo sguardo sublime al cielo. La calma è il più grande beneficio della divinità, è il futuro a cui l'anima immortale tende costantemente, è la beatitudine, la calma è Dio. Bene, allora, è stato in prigione che l'ho trovato. Il segreto del destino umano, senza la prigione non l'avrei mai capito, non l'avrei mai assaporato. Io, giocatore d'azzardo, io, uomo senza convinzione, senza meta, stanco di una vita di cui cercavo vanamente una via d'uscita, tormentato da una libertà di cui non sapevo cosa fare, non prendendomi il tempo per sognarla. Tanto avevo fretta di spingere il mio tempo e di abbreviare la noia dell'esistenza. Avevo bisogno di liberarmi per un po' della mia volontà e di cadere sotto l'impero di una volontà odiosa e brutale che mi insegnasse il prezzo della mia. Questa sovrabbondanza di energia che stava per aggrapparsi ai volgari pericoli e alle fatiche della vita legale è stata finalmente soddisfatta quando ho affrontato l'angoscia della vita espiatoria. Oserei dire che ne uscì vittoriosa, ma la vittoria le portò contentezza e solitaria stanchezza. Per la prima volta in vita mia conobbi la dolcezza del sonno, pieno e voluttuoso in prigione, come l'era stato per me nel seno del lusso. Nella prigione imparai cosa vale l'autostima, perché, lungi dall'essere umiliato dal contatto con tutte quelle esistenze maledette, confrontando la loro vile sfrontatezza e il loro squallido furore con la calma rassegnazione che era in me, mi innalzai ai miei stessi occhi e osai credere che potesse esistere una qualche debole e lontana comunicazione tra il cielo e l'uomo coraggioso. Nei miei giorni di febbre e di audacia non avevo mai potuto sperare in questo. La calma ha fatto nascere questo pensiero rigenerante e a poco si è radicato in me. Ho potuto elevare la mia anima a Dio e implorarlo con fiducia. Oh, quanti torrenti di gioia sono affluiti in questa povera anima devastata! Come sono diventate umili e piccole e misericordiose le promesse della divinità per scendere fino a me e rivelarsi ai miei deboli organi! Fu allora che compresi il misterioso simbolo del Verbo divino fatto uomo per esortare e consolare gli uomini. E tutta quella mitologia cristiana, così poetica e tenera, quei rapporti della terra con il cielo, quei magnifici effetti dello spiritualismo che aprono finalmente all'uomo sfortunato una carriera di speranza e di consolazione. Oh Lelia, oh Stenio, anche tu credi in Dio, vero? Sempre, rispose Stenio. Quasi sempre, rispose Lelia. E poi, disse Trenmore. Con la fede arrivò un'altra facoltà morale, un'altra benedizione celeste, la poesia. Attraverso le tempeste della mia vita passata, questa sensazione aveva toccato rapidamente i miei organi. Avevo capito i grandi poeti a cui mi ero avvicinato. Questo era forse molto per un uomo così ansioso e così incapace di capire se stesso come me. La calma dell'anima faceva nascere la poesia, come aveva fatto nascere il pensiero di un unico Dio amico. Quanti tesori mi sarebbero stati negati per sempre senza il beneficio di questi 5 anni di penitenza e di raccoglimento. L'agonia della prigione è stata per me ciò che la pace del chiostro sarebbe stata per un'anima più dolce e flessibile. Avevo spesso desiderato la solitudine. Nei giorni dell'angoscia e del rimorso infruttuosi, avevo cercato di fuggire dalla presenza dell'uomo, ma invano avevo percorso una parte del mondo. La solitudine mi era sfuggita, l'uomo o le sue inevitabili influenze o il suo potere dispotico su tutto il creato mi avevano inseguito fino al seno del deserto. Nella prigione ho trovato questa solitudine così preziosa e così vanamente cercata. In mezzo a tutto questo vizio e a questa criminalità stracciona che ruggiva al mio fianco, ho trovato isolamento e silenzio. Queste voci hanno colpito al massimo le mie orecchie. Nessuna ha raggiunto la mia anima. Questi uomini non avevano alcuna simpatia morale nei miei confronti. I miei rapporti con loro mi allontanavano più della mia libertà fisica e io ero riuscito a esistere completamente separato dalla vita materiale. Lì c'è l'unica libertà, lì c'è l'unico isolamento possibile sulla terra, in questa calma, in questa solitudine. Il mio cuore si è aperto al fascino della natura. In passato, le regioni più belle, illuminate dal sole, non erano state sufficienti per la mia ammirazione sbiadita. Ora un pallido raggio tra due nuvole, un melodioso lamento del vento sulla riva, il fruscio delle onde, il grido malinconico dei gabbiani, il canto lontano di una fanciulla, il profumo di un fiore faticosamente cresciuto nella fessura di un muro. Erano per me piaceri vividi, tesori di cui conoscevo il prezzo. Quante volte ho guardato con gioia attraverso la stretta grata di una feritoia, l'immensa e grandiosa scena del mare inquieto che portava il suo convulso moto ondoso e le sue lunghe onde spumeggianti da un orizzonte all'altro con la rapidità di un lampo. Com'era bello allora questo mare incorniciato in una fenditura sfacciata, come il mio occhio, incollato a questa gelosa apertura, abbracciò con trasporto l'immensità che si stendeva davanti a me. Non era forse tutto mio questo grande mare che il mio sguardo poteva abbracciare? Dove il mio pensiero vagava libero ed errante, più veloce, più flessuoso, più capriccioso nel suo volo celeste delle rondini con le loro grandi ali nere che sfiorano la schiuma e si lasciano cullare dal vento? Che importanza avevano allora per me la prigione e le catene? La mia immaginazione ha cavalcato la tempesta come le ombre evocate dall'arpa di Ossian. Da allora ho attraversato questo mare su una nave leggera dove la mia anima aveva vagato tante volte. Bene, allora. Allora mi sembrava meno bello, lo confesso. I venti erano pigri e pesanti per i miei gusti, le onde avevano riflessi meno scintillanti, ondulazioni meno aggraziate. Il sole sorgeva meno puro, tramontava meno sublime. Questo mare che mi trasportava non era più il mare che aveva cullato i miei sogni, il mare che apparteneva solo a me e che aveva goduto tutto solo in mezzo agli schiavi incatenati. E ora, disse Stenio, qual è la tua vita? Quali sono i tuoi piaceri? Gli uomini come te vivono così poco la vita materiale che non la godono, a quanto vedo, e non godono dei vantaggi dell'agio e della libertà di tutto ciò che un altro al tuo posto si sarebbe affrettato ad assaporare a lunghe sorsate dopo una così dura astinenza. Sarebbe un orgoglio, rispose Trenmore, peggio ancora una fatuità, dire che sono insensibile alla restituzione di tutti questi beni così a lungo perduti. Ti ho detto con quale combinazione di eventi romantici, ti ho detto dopo quali viaggi, quali fatiche, quali attività ben indirizzate sono riuscito a pagare i miei creditori e ad assicurarmi per il resto dei miei giorni quello che si chiama benessere. Questa grande condizione dell'esistenza era meno necessaria per me che per la maggior parte degli uomini. Abituato alle miserie della schiavitù e poi a quelle di una vita errante, avrei potuto accettare come una benedizione della provvidenza una capanna selvaggia sulle rive di qualche nuovo insediamento con le semplici risorse della natura e i frutti del mio lavoro. Indifferente al mio futuro sociale, l'ho lasciato al caso e, come il caso, l'ho accettato con gratitudine. Oggi sono forse il più felice degli uomini perché vivo senza progetti né desideri. Le passioni spente in me hanno lasciato un immenso fondo di ricordi e riflessioni da cui attingo in ogni momento sensazioni tristi e dolci. Vivo languidamente, senza sforzo, come un convalescente dopo una malattia violenta. Non hai mai provato quel delizioso intorpidimento dell'anima e del corpo dopo quei giorni di delirio e di incubo, quei giorni lunghi e veloci in cui, divorati dai sogni, stanchi di sensazioni incoerenti e improvvise, non ci si accorge del tempo che passa e delle notti che seguono i giorni? Poi, se sei uscito da questo fantastico dramma in cui la febbre ti getta per tornare a una vita calma e pigra, all'idillio e a dolci passeggiate sotto il sole caldo, tra le piante che hai lasciato insieme e che ritrovi in fiore, se hai camminato lentamente, ancora debole, lungo il ruscello, disinvolto e tranquillo come te, se hai ascoltato vagamente tutti quei suoni della natura a lungo perduti e quasi dimenticati su un letto di dolore, se hai sorriso al canto di un uccello e al profumo di una rosa, come se fossero cose rare e nuove, se sei finalmente tornato alla vita, dolcemente, attraverso tutti i pori e attraverso tutte le sensazioni, una per una, puoi capire cosa sia finalmente riposare dopo le tempeste della vita. Devo confessare, tuttavia, che a volte mi ero ripromesso di ottenere da questa nuova vita più felicità di quanta effettivamente me ne abbia data. L'immaginazione dell'uomo è così, trova piacere al di là del presente o al di sotto di esso. Come schiavo, ho assaporato una grande gioia nel sentimento della speranza e nei sogni del futuro. Libero? Ho dovuto cercare queste gioie promesse nella memoria della schiavitù, nei sogni del passato. Bene, è una cosa dolce, queste vaghe sofferenze dell'anima che cerca, che aspetta, che desidera, che ignora se stessa, che costruisce le meraviglie della vita futura e solleva le rovine della vita passata, queste tenere e tristi aspirazioni verso un bene sconosciuto, che non si consegna mai e non si esaurisce mai, tutto questo è la vita dell'anima. Guai a chi l'ignora e ripone la propria ambizione nei beni della terra. Questi beni sono mobili e capricciosi, sono spesso carenti, scivolano via continuamente. Nel cuore dell'uomo i sogni non vengono mai meno. L'attesa e la memoria sono tesori sempre aperti. Trenmore cadde in una profonda fantasticheria. I suoi compagni seguirono il suo silenzio. La bella Lelia guardava la scia della barca, dove il riflesso delle stelle tremanti faceva scorrere sottili fili d'oro in movimento. Stenio, con gli occhi fissi su di lei, poteva vedere solo lei nell'universo. Quando la brezza, che cominciava a salire in improvvisi e rari brividi, gli gettava in faccia una treccia dei capelli neri di Lelia o la frangia della sua sciarpa, egli rabbrividiva come le acque del lago, come le canne sulla riva. E poi la brezza cadeva improvvisamente, come il respiro esausto di un petto sofferente. I capelli e le pieghe della sciarpa le ricadevano sul petto e Stenio cercava invano uno sguardo in quegli occhi, il cui fuoco sapeva così bene come bucare le tenebre, quando Lelia si degnava di essere una donna. Ma cosa pensava Lelia quando guardava la scia della barca? La brezza aveva spazzato via la nebbia. Improvvisamente Trenmore vide gli alberi sulla riva a pochi passi davanti a sé e verso l'orizzonte le luci rossastre della città e sospirò profondamente. «Cosa?» disse. «Di già, stai remando troppo veloce. Stenio, mi stai privando di una cara illusione. Questa nebbia mi ha ingannato, questo rumore di remi, questa sera fredda e soprattutto questa calma religiosa che era in me, mi hanno fatto credere di essere ancora in prigione.